Prossima fermata, Radio Città Fuscico. Fermata provvisoria. Una tappa della musica di domani. Un buon pomeriggio a tutte e tutti e benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Fermata Provvisoria, rubrica del martedì all'interno di Fuscico Factory che si occupa di dare spazio e voce ad artisti emergenti. Io sono Adelina e vi terrò compagnia fino alle 17 circa. E questa settimana andremo a intervistare un artista savonese, Edoardo Nocco. Edoardo è un cantautore, produttore e autore di Savona. Inizia il suo percorso artistico nel 2014 creando i Cantiere 164, band con cui pubblica diversi singoli, accolti molto bene dal pubblico e dalla critica. Suonano all'interno degli High Days Festival e al MEI, il meeting degli indipendenti. Parteciperanno poi anche a Sanremo Giovani e i loro video finiranno in rotazione su MTV. Nel 2018, nonostante le rosee prospettive con i Cantiere 164, Edoardo però sceglie di abbandonare la formazione preferendo di concentrarsi sulla propria carriera solista. È proprio all'interno di questo percorso che Edoardo pubblica il suo primo singolo, È tutto un gioco, seguito poi da altri tre, Rumore, Senza farmi male e Fragile, che sono contenuti all'interno del primo e nuovo album Senza farmi male, uscito il 25 novembre 2020. Prima di andarci a fare due chiacchiere con Edoardo, però ci ascoltiamo la prima traccia dell'album Senza farmi male. E sentimi, non me lo vuoi dire, che la colpa è la stessa che tengo nascosta da tempo. E gridami quello che devo fare. Non voglio adattarmi al mondo che ruota per forza del caos. Guardarmi so che non ti conviene. Tu fallo senza ragione e non farà male mai. Gridami quello che devo fare, insegnami a iniziare a volare. Tutte le notti insonni io penso a te. Dimmi come posso fare a tornare indietro senza farmi male. Ascoltami, sono stato al tuo fianco, costruito, creato e distrutto. Parole che lascio in un vecchio sentiero. E più vado avanti e guardo per terra, voglio solo sapere se tu stai ancora bene. Guardarmi so che non ti conviene. Tu fallo senza ragione e non farà male mai. Gridami quello che devo fare. Iniziare a volare, tutte le notti insonni io penso a te. Dimmi come posso fare a tornare indietro senza farmi male. Senza farmi male di Edoardo Nocco. Adesso quindi abbiamo i microfoni Edoardo e chiedo se innanzitutto ci sente. Sì, vi sento bene, ciao a tutti. Ciao, ciao Edoardo, ciao. Grazie mille per essere qua con noi oggi. Innanzitutto ti volevo chiedere come stai. Ma tutto bene, dai, nonostante questo periodo un po' strano che penso, spero si risolverà presto, dai, però si va avanti. È una domanda sempre un po' strana in effetti, come stai di questo periodo, però dai. Sì. dai, però si va avanti. Esatto. Diciamo che speriamo che si risolverà il prima possibile, dai, bisogna tenere i denti stretti e via, farcela. Sì. Noi abbiamo appena sentito la prima traccia del tuo nuovo album, che è uscito il 25 novembre del 2020, e quindi ti volevo chiedere se hai voglia di parlarci un po' di questa nuova uscita, di questo nuovo progetto. Certo, vabbè, intanto vi ringrazio anche io, che è una bellissima opportunità per me essere proprio a fare un'intervista per voi, sono molto felice. Comunque, senza farmi male, diciamo che è il mio primo disco d'esordio, che è stato registrato praticamente tutto in un garage, che è il mio garage dove produco e scrivo i pezzi. Mi hanno aiutato a produrlo Matteo Costanzo e Samuele Puppo, che sono due musicisti, uno di Roma e uno di qua di Savona. È stato mixato da Giulio Farinelli e masterizzato da Giovanni Nebbia. Diciamo che senza farmi male riassume un po' uno spaccato di vita vissuta tra esperienze appunto che ho avuto in questo ultimo anno, amori, introspezioni, stati d'animo. Diciamo che comunque nel disco ho cercato di esprimere, diciamo, un senso di speranza e una voglia di emanciparsi da tutto quello che abbiamo intorno. Ma io scrivo canzoni da circa 10 anni, da più o meno, sì, adesso ne ho 24, più o meno da circa 10 anni. Hai iniziato, diciamo, presto, quindi. Sì, ho iniziato presto, ma questo primo disco, cioè, ho avuto una band successiva, precedentemente, che, con la quale abbiamo fatto un pochino di cose, però non abbiamo mai avuto l'occasione di far uscire un disco, quindi per me è proprio importante questa uscita, un po' forse perché è la prima, un po' perché ci sono delle canzoni a cui sono affezionato, quindi è un traguardo comunque importante. L'album contiene 7 tracce, ti volevo chiedere se poi nel momento di scrittura e di elaborazione, certo, di queste tracce hai una traccia che è a te più cara oppure che hai impiegato più tempo a realizzare. Allora, diciamo che sono sostanzialmente canzoni che ho scritto, appunto, come ti dicevo prima, in questo ultimo anno. Tra l'altro una, che si chiama L'aria nella stanza, che è la quinta canzone del disco, l'ho scritta proprio, dato che il disco è uscito a novembre, l'ho scritto praticamente nella prima quarantena che c'è stata. In realtà era una canzone che non doveva essere nel disco, poi però ho pensato che forse era il momento di farla uscire, che era giusto appunto metterla in questa raccolta, perché comunque in quest'anno poi c'è stato anche questo periodo qua, ed è una canzone appunto che parla di come scappare un po' dalla solitudine che spesso in questo ultimo periodo ho provato e diciamo tutte le cose che mi sono mancate, che penso manchino anche a molte persone, ossia semplicemente abbracciare un amico, per dire, comunque andare a bersi una birra, cioè. Tra l'altro è anche una delle mie tracce preferite, perché appunto, come stavi dicendo tu adesso, cioè, mi ha colpito molto una frase in cui dici: mi mancano gli amici, la sera, le birre, gli abbracci, che in questo periodo, in questo contesto pandemico, forse queste sono uno degli elementi che più mancano all'interno della società, della socialità, ecco. Anche mi ricordo proprio quando la sto scrivendo mi mancava particolarmente questa cosa e ho detto: cavolo, sicuramente non sono l'unico a cui manca, comunque. Che poi, ok, che ci mancherà, cioè, speriamo che il prima possibile appunto si possano rivivere queste cose, ecco. Ce l'auguriamo comunque, tutti. Cioè, diciamo che c'è stato un po' un lavoro su tutte le canzoni abbastanza lungo, perché una volta che le canzoni sono nate prevalentemente chitarra, voce, pianoforte, voce, anche se io non sono un pianista, però mi diverto molto a scrivere le canzoni anche col pianoforte, perché ha un'armonia completamente diversa rispetto alla chitarra, che essendo uno strumento accordato, vabbè, in un determinato modo tutte le armonie vengono in maniera diversa, mentre col piano, essendo uno strumento molto più orizzontale, è diverso scrivere una canzone. Comunque, dicevo, appunto, partendo da una chitarra, un piano e voce, poi c'è stato tutto un discorso di arrangiamento e produzione, e come ti dicevo prima, un po' fatto da solo, un po' mi sono fatto aiutare da questi due ragazzi. Però diciamo che non sempre alla prima, diciamo, abbiamo preso la produzione, nel senso, ci sono stati anche degli upgrade su ogni canzone fino ad arrivare poi al risultato finale. Va bene, io direi di iniziare subito sentendoci a questo pezzo, L'aria nella stanza, e poi ritorniamo a farci due chiacchiere. Perfetto. conosco a malapena me. Come faccio a sapere chi sei? Perdo le chiavi di casa 3 volte al giorno e non so il perché. Mi mancano gli amici la sera, le birre, gli abbracci, i baci dati sul treno che sta per partire. Dormo sull'erba stasera, ho bisogno di sognare un po', cercando una stella in cielo per capire come sto. Continueremo a prenderci per mano per fuggire in quel posto che abbiamo. Ma arriverà la primavera, sarà solo un altro giorno dove ti posso respirare. Castelli di paure costruiti su incertezze, l'aria nella stanza prende forma sulle tue parole. Impareremo a mordere questa vita a denti stretti o a braccia aperte. Vedremo ancora un'alba senza accorgerci di niente. Vedremo ancora il mare, la notte. Ma arriverà la primavera, sarà solo un altro giorno dove ti posso respirare. Castelli di paure costruiti su incertezze, l'aria nella stanza prende forma sulle tue parole. Ma arriverà la primavera, sarà solo un nuovo giorno. Guarderemo aeroplani passare, sfiorandoci pian piano. Castelli di paure costruiti su incertezze, l'aria nella stanza prende forma sulle tue parole. L'aria nella stanza di Edoardo Nocco, del nuovo album Senza farmi male. Siamo in collegamento con Edoardo e quindi continuiamo questa nostra chiacchierata. Questa canzone mi ha colpito molto, come dicevo prima, perché nasce in modo diretto e spontaneo durante il periodo di quarantena, e anche un po' tutto l'album, credo, per quanto riguarda la composizione, poi nasce in questo periodo. Io ti volevo chiedere infatti come e quanto ha influito il contesto pandemico sul tuo flusso creativo, se vogliamo chiamarlo così, per questo album. Allora, per questo album in particolare, diciamo che, come dicevo prima, L'aria nella stanza è stata praticamente in realtà l'unica canzone che ho, diciamo, elaborato in questo periodo, perché ovviamente per fare un disco non ci vuole un giorno, quindi c'è stato un lavoro di circa un anno tra una cosa e l'altra, una volta che avevo i pezzi scritti, dico, di arrangiamento, di mixaggio, master, eccetera. Da un punto di vista creativo, sicuramente questa quarantena, non tanto per il disco ma in generale, non so perché, ma mi ha stimolato a scrivere nuove canzoni. Infatti ho scritto un sacco di nuovi pezzi, e voglio praticamente già farli uscire, però è un po' presto forse, perché è appena uscito il disco. Però comunque in realtà è stato un periodo abbastanza creativo da quel punto di vista. Sono contento, anche perché così il tempo mi è passato molto più velocemente. E niente, quindi è un po'... Certo. Diciamo che nel disco L'aria nella stanza comunque in realtà è quella che c'entra di più con questo periodo pandemico, mentre gli altri pezzi sono nati comunque prima, ecco. La terza traccia invece, che si chiama Ma io, mi ha colpito soprattutto anche per il video, sono sincera, perché è un video molto interessante, è stato girato grazie. In un piccolo molo vicino a Savona, e poi diciamo che c'è stata una scelta, credo, dietro a questo sì, video, quella scelta, esatto. della ripresa con un singolo piano sequenza, priva di montaggi. Esatto. Cioè praticamente è stata fatta in one take, in realtà abbiamo proprio fatto forse due riprese, nel senso abbiamo fatto due take di video, però alla fine quello che mi interessava sia a me che al regista era quello di ottenere comunque un video spontaneo. Abbiamo poi pensato che potesse essere anche interessante mettere le strofe in slow motion. È stato molto divertente girarlo perché io non avevo mai cantato a velocità doppia, perché quando tu giri il video che poi vuoi che sia in slow motion devi cantarlo al doppio della velocità, così che il labiale poi sia a tempo, no? Sia in sincrono, in tempo. Esatto, e quindi è stato molto divertente perché c'ero io che cantavo la strofa, tipo, è proibito, velocissimo. E poi vedere però il risultato finale è stato interessante, mi è piaciuto un sacco, perché nelle strofe dove il pezzo è più lento, comunque anche il video è tutto più lento, ma comunque il labiale è in sincro, e poi nel ritornello invece a velocità naturale. Poi tutto interamente girato a Savona, che è anche la tua città. Diciamo. Sì, è la mia città, esatto, e tra l'altro è stato girato in questo moletto che ho scoperto circa tipo una settimana prima del video, perché sono andato appunto a fare una passeggiata da quelle parti e ho detto vabbè, vado un po' qua sotto, e ho visto che c'erano queste casette di vecchi pescatori molto belle nel porticciolo di Savona. E ho detto, qua sarebbe carino farci il video a cui stavo pensando, e poi è nato tutto. Sì, un classico quadretto ligure. Esatto. Infatti io volevo chiederti se le tue origini o comunque la tua città influiscono su poi la realizzazione dei tuoi brani e della tua musica. Questa è una bella domanda, nel senso che io in realtà vengo da una famiglia che ha origini in realtà sarde, nel senso che sia i genitori di mia mamma e sia mio papà sono sardi. Ma sinceramente mi viene da dirti che non, forse scriverei comunque le stesse cose indipendentemente dal luogo in cui nasco, cioè in cui vivo, anche perché in questo tempo io ho vissuto anche a Cuneo, perché ho studiato lì al conservatorio e tra l'altro mi sono laureato poco fa, e quindi ho vissuto in realtà fuori casa per 3 anni, quindi in realtà il posto sicuramente influisce nella scrittura, ma comunque sei sempre te stesso in un posto, quindi alla fine ti influenza l'ambiente esterno, le circostanze, però comunque sei sempre te stesso. E volevo passare all'ultima domanda, perché purtroppo dobbiamo chiudere questa intervista. Certo. E ti ringrazio ancora, Edoardo. No, grazie a voi, è veramente un piacere fare 2 chiacchiere. E volevo appunto chiederti se hai dei progetti futuri. Ora è appena uscito il tuo album, però so che certo. Gli artisti sono sempre... Infatti, come ti dicevo prima, sto già pensando ovviamente altre cose su cui lavorare, e ci sto già lavorando in realtà, quindi nuove canzoni sicuramente, altri progetti, diciamo che faccio anche il produttore, quindi mi piace anche fare musica per altre persone, quindi sto anche facendo tanto in questo senso, in questo verso, e quindi speriamo di fare più musica possibile nel 2021 e cercare di tornare ai concerti, rivedere le persone, rientrare in contatto e... Che ci mancano tanto i concerti dal vivo. Da questa situazione, magari un giorno ci vediamo, magari suoniamo da qualche parte vicini. Speriamo. Facciamo qualche serata insieme. Speriamo e speriamo di sentire presto tutti i tuoi nuovi lavori. E io ti ringrazio ancora, Edoardo, e grazie a te, spero a presto. Ti auguro una buona giornata. Anche io, grazie ancora. Un saluto. Grazie. Ciao. Ciao, ciao. E lasciami come vorresti ritrovarmi, e chiedimi se il tempo è relativo. Sai, dimenticare è facile se non perdi niente. il passato migliora il futuro e distrugge il presente. In passato sono stato insicuro e forse un po' assente. Il passato migliora il futuro e distrugge il presente. In passato sono stato insicuro. E guardami, sono da solo in una spiaggia. E sentimi, sono il suono della pioggia. E sai, dimenticare è facile se non perdi niente di niente. Il passato migliora il futuro e distrugge il presente. In passato sono stato insicuro e forse un po' assente. Il passato migliora il futuro e distrugge il presente. In passato sono stato insicuro e